mio padre ora vivo in un grande castello lassù. Ho un letto d'oro, due occhi blu, ma non so dirti che nome ho. Un giorno poi dalla finestra, quella più alta e più stretta che ho, ho visto lei, lunghi capelli, l'ho disegnata in me, così. Lei mi guardò, lei mi chiamò, tanta paura poi, perché io da quassù, dalla finestra, l'aspetto e arriva col sole già giù. Raccoglie i fiori, lo fa per me, corre nel prato ed io quassù.